La teoria delle stringhe è nata. È democratico perché. Per OGM si intende. L'effetto placebo. Da Baikonur. È rimasta quella di Darwin. La mia risposta è che non lo so. Caccia al fotone. Scienza e dintorni su Radio Città Fujiko. A cura di Fabio De Sicò. Sabato 16 maggio 2009 e benvenuti a un'altra puntata di Caccia al Fotone. Su internet www.cacciafotone.it. I contatti 333-180-9494 per gli sms e cacciafotone@radiocittafujiko.it per le mail. E quest'oggi si parlerà di comunicazione scientifica. E lo faremo con Claudio Pasqua, giornalista scientifico e fondatore di Gravità Zero. Buongiorno Claudio. Buongiorno Fabio. Claudio, togliamoci subito, come dire, il sassolino dalla scarpa. Che cos'è Gravità Zero? Gravità Zero, io lo penso un po' come una palestra delle idee, cioè un modo nuovo per parlare di scienza e per rivolgersi al pubblico. E vuole un po', è nato così, per sfatare l'errata convinzione che la scienza debba essere per forza noiosa e difficile da comprendere. E lo fa usando i nuovi canali comunicativi. Pensiamo ad esempio ai social network, che cerca di spiegare quello che accade nel mondo scientifico in maniera che sia possibilmente divertente, almeno lo speriamo. Noi lo dichiariamo proprio sul sito e è strutturato come un corporate blog, cioè ha le stesse regole di un blog aziendale, con un comitato scientifico, un comitato di redazione, diversi collaboratori, alla maniera americana. Noi ci affidiamo un po' alle regole che avevamo visto sui siti del grande editore americano Tim O'Reilly, che è il nostro ispiratore. E come un'azienda anche noi abbiamo un obiettivo che punta un po' al massimo profitto ed è l'esperienza positiva del lettore. Infatti tutto quello che c'è sul sito è gratuito e rimarrà gratuito, quindi il nostro guadagno è la soddisfazione che riceviamo dai nostri lettori, che partecipano oltretutto attivamente. Con loro sono in atto iniziative, abbiamo organizzato convegni e ne organizzeremo ancora con dei premi ai migliori ricercatori. E quindi siamo un po' come una grande famiglia con una passione in comune, la scienza. Claudio, io credo che Gravità Zero sia uno dei pochi esempi italiani in cui ci sono più persone che collaborano insieme, in cui c'è un approccio alla scienza di tipo anglosassone che io ancora non ho trovato e nei vari blog che vedo in rete che parlano di scienza. Claudio, di tutto questo parleremo, di fine del giornalismo, parleremo di giornalismo scientifico in rete, quindi la trasformazione del giornalismo scientifico in rete dal web 2.0, ne parleremo nel proseguo della trasmissione. Adesso ci andiamo ad ascoltare un piccolo pezzo musicale, sempre Creative Commons come al nostro solito, e poi rientreremo di nuovo in studio. I get up and I catch myself in a bound. Flavio, recupero un po' quello che è stato scritto sul blog di Caccia Fotone. C'era un po' un tempo in cui la scienza era degli scienziati, quindi per gli eletti, scritta nella lingua degli eletti, cioè la matematica. Poi a un certo punto è arrivato internet e internet ha trasformato un po' le modalità di comunicazione della scienza. Oggi di scienza ne possono leggere tutti con i termini più semplici, le ricerche sono disponibili in rete, tipo le librerie di PLOS o di ArcSIV. Che cosa è cambiato nella scienza nel corso di questi anni? Intanto è cambiato il modo di fare comunicazione. Si è un po' allontanati dal modo ingessato che avevano le grandi accademie di rivolgersi al pubblico. Oggi la scienza deve divertire. Pensiamo a come comunicano la scienza gli anglosassoni, in maniera diretta, divertente, coinvolgente. Io amo ricordare una cosa che scrive Piero Bianucci nel suo ultimo libro, Te lo dico con parole tue, che analizza proprio come deve essere il linguaggio scientifico per farsi capire dalla gente. Bianucci ricorda il fenomeno della tabacchiera di Lalande. Per chi non lo sa, Lalande è stato uno dei più grandi divulgatori del 1700, ma quello che lo rende impareggiabile era il suo metodo. Lui faceva un uso insolito di una tabacchiera, dove pare che si tenesse dentro dei ragni vivi. La finalità però era didattica. Durante le notti serene, Lalande si metteva con un suo piccolo telescopio di fronte al ponte della Senna e aspettava che passassero le persone lì accanto. Lui aveva l'intento di mostrare il cielo, gli anelli di Saturno, i satelliti di Giove, ma i parigini si disinteressavano di tutte queste meraviglie. Così a un certo punto lui cosa faceva? Apriva la sua tabacchiera e tirava fuori un ragno vivo e se lo mangiava. È un po' quello che in teoria continuiamo a fare noi, cioè cerchiamo esatto. di attirare le persone con, non lo so, dei titoli fatti ad arte, poi nel corso dell'articolo cerchiamo di spiegare come dire, i concetti più complicati, un po' il principio base della divulgazione scientifica. Sì, ma pensiamo poi anche a molti attori che in realtà sono scienziati che portano sulle scene delle bellissime rappresentazioni divertenti dove coinvolgono i bambini. Pensiamo al dottor Molecule che è stato qui a Torino ai Giovedì Scienza, ma pensiamo anche alla palestra della matematica, Mate Fitness, no? E poi pensiamo che Lalande non era un semplice sconosciuto, è diventato il direttore dell'Osservatorio di Parigi. La tabacchiera di Lalande merita davvero un posto d'onore nella storia della cultura per aver saputo divulgare la scienza in maniera da coinvolgere i presenti. È ovvio che la tabacchiera era soltanto un pretesto per avvicinare i passanti distratti, ma poi una volta che si formava il capannello di persone, lui abbandonava la tabacchiera e iniziava la vera divulgazione. Senti Claudio, una domanda, visto che molte volte si critica la divulgazione scientifica proprio per il fatto di mettere dei titoli ad arte per attrarre l'attenzione e poi dentro l'articolo parlare di scienza in maniera tra virgolette rigorosa, questo non rischia, come dicono buona parte degli scienziati, di smitizzare e ridicolizzare la scienza? No, attenzione. Bisogna pensare che non è il titolo che attira il lettore, ma l'intero testo. Se noi pensiamo ad alcuni esempi che traiamo dalla psicologia, sappiamo che soltanto metà del messaggio sta in ciò che si trasmette, l'altra metà sta nel destinatario, cioè dobbiamo sapere con chi stiamo parlando. Il divulgatore deve conoscere queste regole, altrimenti la scelta delle parole, se non è calibrata, non arriva al destinatario. Penso a quello che dice uno psicologo, Matteo Rampin, che ci offre un esempio veramente divertente e illuminante. Provate a pensare a questa storia. Un novizio un giorno chiede a un priore: padre, posso fumare mentre prego? Ovviamente viene rimproverato severamente, non si fuma infatti mentre si prega. Un secondo novizio gli chiede allora: padre, posso pregare mentre fumo? E naturalmente fu lodato per la sua devozione. Questo ci mostra come, a seconda di come spieghiamo e raccontiamo, l'uditore avrà un'esperienza diversa, di tipo diverso, e una risposta di tipo diverso. È un po' il principio per cui non solo le persone di scienza possono leggere di scienza, ma anche persone non di scienza possono leggere di scienza, basta solamente cercare di attrarle con le parole fatte apposta per loro. Sì, ma non soltanto chi legge può non essere avvezzo, no? Diciamo così, all'argomento o al linguaggio scientifico, anche chi racconta di scienza può non essere uno scienziato. Prima ho parlato di Piero Bianucci, pensiamo che lui è un filosofo, ma ha fondato Tutto Scienze, che è tuttora uno degli inserti, forse l'unico inserto in Italia che racconta di scienza nei quotidiani italiani. Pensiamo a Telmo Pievani, che racconta in maniera eccellente quella che è la teoria dell'evoluzione di Darwin, anche lui filosofo. Quindi non necessariamente bisogna essere uno specialista, però bisogna specializzarsi, questo sì, sia nell'argomento di cui si sta trattando, sia nel modo di comunicare, quindi nel saper raccontare. Claudio, ti volevo far commentare una frase che era uscita sul Times di qualche mese fa. Questa è una polemica che diciamo sta affrontando molto il mondo anglosassone, qui in Italia ancora non è arrivata, cioè la cosiddetta fine del giornalismo. Di questo ne parleremo poi nella seconda parte della trasmissione. Però George Brooke parla del fatto che i professionisti potrebbero non essere meglio degli amatori. Tu che cosa ne pensi? Io penso che chi debba fare del giornalismo debba essere un professionista, cioè un professionista del suo settore. Non finirà il giornalismo, finirà il giornalismo cartaceo, ma non lo dico io, lo dicono i grandi direttori. Penso ad esempio a Piers Morgan, che è stato direttore del Daily Mirror, che ha detto categoricamente che ogni giornale ha un grande futuro online, fine della storia, cioè nel giro di 5 anni tutti i quotidiani saranno gratuiti e tutti saranno online. Questo non significa che finirà il giornalismo, semplicemente cambierà il modo di trasmettere le informazioni. Le persone in rete vogliono confrontare le notizie, vogliono accedere alle notizie in modo rapido e avere dei confronti diretti con opinionisti diversi. Tutto questo la rete lo permette. Purtroppo la carta stampata ha un grande limite. Primo, costa. Secondo, costa anche in termini energetici. Spostare grosse quantità di carta genera comunque un ritorno negativo anche per l'ambiente. Claudio, andiamo ad ascoltarci un piccolo pezzo musicale, poi torniamo in studio per la parte centrale della trasmissione, che è proprio questo argomento, cioè il fatto che la comunicazione scientifica in qualche modo, da quando è arrivato internet, da quando è arrivato il web 2.0, quindi parliamo di YouTube, Facebook, i blog, eccetera eccetera, è cambiata profondamente, e la comunicazione scientifica, come tutto il giornalismo, viene un pochino più dal basso. Listen to the sound of the boogie, boogie. Claudio, introduco un argomento di cui abbiamo parlato molto nel fuori onda, cioè il fatto che oggi esistano molte librerie scientifiche tipo PLOS, la libreria Open Access, oppure che le ricerche siano molto più pubbliche di una volta e quindi tutte le persone possono andare a scaricarsi del paper, leggere magari solamente l'abstract, o per le persone che magari sono più addentro alla materia leggersi tutta la ricerca e farsi un'opinione. Questo alla fine non porterà il giornalismo scientifico a essere inutile, non è un po' l'Eden del giornalismo scientifico, cioè fornire un abbecedario tale per cui il popolo, la gente normale, possa scaricarsi un articolo e decidere autonomamente se la ricerca gli interessa oppure no? Certamente internet ha permesso una cosa fondamentale, che è quello del rapido accesso e dell'universale accesso alle fonti di informazione scientifica. Chiunque di noi può accedere per esempio ai contenuti di Nature o di Science e leggere direttamente dalla voce dei protagonisti quello che stanno facendo nei laboratori, però sfido chiunque a capirci qualcosa di quello che c'è scritto, nel senso che anche gli specialisti a volte hanno difficoltà a comprendere tutte le logiche e i meccanismi che vengono attuati nei laboratori. Allora c'è sempre bisogno di un filtro, cioè di qualcuno che trasponga quello che è scritto su queste testate autorevoli e le trasponga in un linguaggio comprensibile, e questo fa un po' il divulgatore, cercare di utilizzare le regole della buona comunicazione per divulgare la scienza in maniera comprensibile. E è un'attività che qua in Italia è sottovalutata, ma che all'estero, penso negli Stati Uniti, viene insegnata negli istituti superiori e viene remunerata, pagata profumatamente negli enti, nei laboratori scientifici, perché tutti i laboratori oggi sono in larga misura finanziati da privati, cioè da grosse società che hanno comunque bisogno di essere visibili nel panorama scientifico. E quindi un buon comunicatore fa proprio quello, cercare di portare al maggior numero di persone, rendersi visibili, rendere visibili le proprie iniziative, perché poi i finanziamenti degli enti privati e degli enti pubblici vengono erogati in base alla popolarità di una certa attività. Pensiamo ad esempio qui da noi al fenomeno Telethon. Chi di noi darebbe qualcosa alla ricerca se non fosse a conoscenza di quello che gli scienziati stanno facendo nei laboratori? Invece c'è stata una grande partecipazione di pubblico grazie alla divulgazione, grazie ai media. Diciamo che in qualche modo la divulgazione serve fondamentalmente a parlare e far parlare gli scienziati, e poi fondamentalmente tutta l'attività della scienza viene svolta in autonomia, e poi le persone, come dici tu, si interessano degli argomenti proprio per il filtro che c'è. Certo, poi nulla vieta al comune cittadino di appassionarsi, di creare un proprio blog, di approfondire. Questo è lo scopo della divulgazione, far appassionare le persone. Chiunque con ovviamente impegno e anche un certo tempo da dedicare può approfondire qualsiasi aspetto scientifico e fare della divulgazione. L'importante è appunto che lo faccia con usando delle fonti autorevoli, delle fonti affidabili. Le fonti affidabili sono già disponibili online anche a un linguaggio accessibile. Penso per esempio ai blog scientifici tenuti da scienziati con un linguaggio veramente molto scorrevole e semplice da leggere. Claudio, tu parlavi di fonti autorevoli, quindi ti volevo chiedere, visto che la gente non sa quali sono le fonti autorevoli, come può crearsi degli anticorpi per individuare quali sono le fonti autorevoli oppure no? Beh, in Italia ad esempio può partire semplicemente dai blog delle più importanti testate scientifiche di divulgazione. Ad esempio un esempio che consiglio a tutti è di partire dai blog di Le Scienze, la rivista italiana che è la corrispettiva di Scientific American. Sono dei bellissimi blog semplici da leggere e che hanno moltissimi approfondimenti e addirittura anche i commenti sono interessanti. Ci sono poi altri siti web altrettanto autorevoli come quelli che nascono al Sista di Trieste o lo stesso Galileo Web, le varie riviste di divulgazione, Darwin, eccetera. Partendo da queste riviste che hanno comunque un comitato scientifico autorevolissimo, basta ad esempio vedere chi c'è all'interno del comitato scientifico, se ci sono nomi di scienziati noti al pubblico, penso alla Rita Levi-Montalcini, penso ad esempio a un Tullio Regge piuttosto che altri grossi nomi della scienza italiana, beh, in quel modo noi riusciamo ad andare sul sicuro. Fondamentalmente quello che c'è scritto viene accettato dalla comunità scientifica e quindi possiamo andare sul sicuro. Senti Claudio, e allora perché molte volte sui giornali troviamo delle notizie tradotte male, visto che stiamo parlando di traduzione, con magari dei titoli ad hoc per far comprare il giornale? Mi viene in mente per esempio quando ci fu il fenomeno dell'accensione di LHC, il grande acceleratore di particelle, in quel periodo tutti i giornali titolavano che il mondo sarebbe finito, che ci sarebbe stato un buco nero che avrebbe inghiottito la Terra, eccetera eccetera, davano molto spazio a ricerche che non erano scientifiche ed erano ricerche che in qualche modo facevano vendere giornali. Secondo te perché viene fatto questo e per quale motivo l'informazione mondiale, perché questo non è un fenomeno solamente italiano, ma l'informazione mondiale punta sempre sul massimo profitto e sul minimo sforzo, perché alla fine raccontare che c'è un buco nero che inghiottirà la Terra è veramente minimo sforzo? La risposta lo danno gli stessi caporedattori delle grandi testate. Il caporedattore di una di queste, ad esempio pochi giorni fa, mi ha descritto il suo lavoro e ha affermato che i tempi molto stretti, loro hanno grosso modo un'ora di tempo per scrivere un pezzo, il numero ridotto di redattori che si occupano di aspetti scientifici, molti di loro assolutamente non sono specializzati in scienza e non hanno il tempo di contattare persone autorevoli che possono dargli come dire una sorta di giudizio. Tempi strettissimi, necessità di uscire con titoli eclatanti e di far vendere il giornale. Fondamentalmente la qualità degli articoli scientifici sui quotidiani è, se non dire inesistente, molto scarsa, e questo non lo affermo io, lo affermano gli stessi redattori che si occupano di argomenti scientifici. Purtroppo i quotidiani, tolti appunto pochi esempi, uno tra i quali Tutto Scienza della Stampa, non hanno questa capacità, non hanno questa possibilità, perché non esistono persone competenti al loro interno che si occupano di questi argomenti. Claudio, ci andiamo ad ascoltare l'ultimo pezzo musicale, poi entriamo per gli ultimi 5 minuti di trasmissione perché è arrivato un SMS che ti chiede un'informazione. Veltroni. Ah, la pazza! Caro mio, però se tu non ci metti la fotina, ma io che ne so chi sei, se sei una persona carina. Ma come faccio a fidarmi, no? To hold on to, because it's not always a sally would be. audio al 333-180-9494 arriva una domanda da un tuo omonimo. Claudio ci chiede, visto che state parlando di fonti, mi indicate qualche fonte? Claudio, a te la risposta. Allora, ci sarebbe da intavolare una trasmissione solo su questo. La cosa più semplice è quella di collegarsi al sito gravitazero.org e guardare sulla destra e sulla sinistra l'elenco dei blog e dei siti web che vengono consigliati, che vengono citati. Sono solo una parte nel panorama italiano e internazionale, però è una buona base da cui partire. Quelli sono un po' quelli che abbiamo selezionato e che riteniamo delle fonti attendibili. Spesso sono anche blog di singoli ricercatori, quindi anche persone comuni che dedicano il loro tempo senza ricevere nulla in cambio, semplicemente per divulgare la passione della scienza. Poi ci tengo a ricordare una persona che purtroppo non è più tra noi e che è il grande Franco Carlini. Per altri, per noi era soprattutto la voce conduttrice di Radio 3Scienza, ma sapevamo che la sua missione da laureato in fisica e ricercatore al CNR è sempre stata quella di dedicarsi con tutta la sua determinazione di giornalista alla divulgazione scientifica e del mondo del web. Chip Senza Alta è stato forse il primo esempio serio di blog di divulgazione italiano e lo possiamo ancora trovare in rete, basta cercare su Google. Questa è una bella palestra per chi si accinge a fare i primi passi nel mondo del giornalismo e lo consiglio veramente. Claudio, io ti ringrazio per essere intervenuto in diretta a Caccia Fotone. Io ti saluto, tanto poi ci leggeremo via mail su Gravità Zero. Io intanto saluto te, saluto gli ascoltatori di Caccia Fotone e di Radio Città Fugico che da questa settimana è sull'agenzia multimediale italiana. E come al solito vi auguro una buona scienza a tutti. Grazie Claudio. Grazie a te Fabio e a tutti gli ascoltatori.